Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Esorgante e traghettatore, cominciamo subito con una notizia sul nostro ormai famoso terzo settore. C'è una ricerca che definisce i contorni, i limiti di sostanze. 5% del prodotto interno lordo e terzo settore che a questo punto indica anche un numero di occupati, 750.000 in forma retribuita e ben 3.300.000 volontari, dati davvero incredibili. Questo dato emerge dal libro bianco sul terzo settore che è edito dalla società Il Mulino ed è a cura di Stefano Zamagni, che è presidente dell'agenzia e professore di economia politica all'Università di Bologna. Renaissance Link, 2 anni dopo, l'associazione di Francesco Morace ha celebrato i primi 2 anni di lavoro e riafferma la teoria del terzo rinascimento. Professor Francesco Morace, riaffermiamo la teoria avendo forse più convinzione di quanto non ce l'avesse 2 anni fa. Sono passati solo 2 anni, ma molte cose sono cambiate. Molte cose sono cambiate, sì, buongiorno a tutti, perché in realtà questa idea ha trovato un interesse e ha generato progetti in tutta Italia e devo dire che in 2 anni noi ieri abbiamo in triennale presentato proprio tutti i progetti nati, sono più di 20 in 10 regioni italiane legate a questa idea di terzo rinascimento. La ricordiamo al volo, l'idea che l'Italia sia la culla di diversi rinascimenti è un'idea originale. Il primo rinascimento lo conosciamo tutti, il secondo è quello degli anni 50-60, è stata la culla del design italiano e poi del Made in Italy e della moda. Noi siamo convinti che questi siano gli anni di un possibile terzo rinascimento, sostenuto da un lato dalle nuove tecnologie e dall'altro da una capacità che ancora per fortuna abbiamo di inseguire e produrre l'eccellenza. Un po' di sano ottimismo ci fa sicuramente piacere. Professore, qualche caso di quelli che avete raccontato ieri? Abbiamo da un lato casi di università come l'Università di Firenze, di Palermo, di Vicenza, che hanno in qualche modo dimostrato di poter, partendo dal territorio e anche dal locale, ad esempio il progetto lanciato dall'Università di Palermo sull'arredo del Mediterraneo, quindi una sorta di Ikea del Mediterraneo utilizzando le caratteristiche tipiche della produzione artigianale di tutto il bacino mediterraneo, piuttosto che l'Università di Firenze, che ad esempio ha lanciato un'ipotesi di produzione vinicola che è seguita dalla facoltà di agraria e che è diventata un'etichetta, quindi esiste oggi l'etichetta Università di Firenze, sono 200.000 bottiglie all'anno prodotte di qualità eccelsa, quindi la dimostrazione è che il mondo universitario, il territorio e il mondo anche dei giovani, quindi studenti, possono in qualche modo seguire questa strada del terzo rinascimento. Ecco, toccato un argomento a cui siamo particolarmente sensibili, molto brevemente, poi un giorno riprendiamo l'argomento Ikea del Mediterraneo perché è molto divertente, professore. I giovani, siete riusciti a intercettarli? Avete aperto un canale di comunicazione con loro che sono così sfuggenti? Sì, ci siamo riusciti utilizzando i loro strumenti. L'associazione da sempre viene seguita con molto interesse, tra l'altro lo dico perché si tratta comunque di una realtà del gruppo 24 ore, Sole 24 ore. Su Nova noi avevamo pubblicato il decalogo dell'associazione e già dai primissimi giorni, quindi 2 anni fa, molti ragazzi, giovani, studenti, laureati, laureandi avevano risposto con entusiasmo. Quindi oggi esistono in 15 città italiane gruppi di ragazzi e di giovani che stanno lavorando sulle nostre ipotesi. Bene, professore, ne parleremo sicuramente ancora. Grazie, a presto a Francesco Morace. Grazie a voi. Restiamo nell'ambito dell'impresa, del patrimonio culturale e parliamo di un portale che si chiama proprio Archivi d'Impresa, alla quale ha dato anche un contributo importante la Commissione Cultura di Confindustria, che ha l'obiettivo di mettere in rete le esperienze delle imprese pubbliche e private e valorizzare questa cultura d'impresa del nostro paese anche per salvaguardarla. Hanno partecipato alla realizzazione di questo portale più di 30 partner tra fondazioni e archivi storici d'impresa. È tutto per questa puntata, ferribotti@radio24.it per le vostre informazioni e un grazie ad Anita Panizza in redazione e a Roberto Scaltritti in regia. Alla prossima.